ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Radio 24 Reportage. La Ville Lumière sogna le sue luci. Il Covid spegne le strade di Parigi. Di Danilo Ceccarelli. Parigi è una festa mobile, scriveva negli anni 20 Ernest Hemingway, senza lontanamente immaginare che un secolo dopo quell'atmosfera bohemienne rimasta nel tempo sarebbe stata spezzata da una crisi sanitaria senza precedenti. Eppure, la Ville Lumière proprio non vuole saperne di spegnere le luci una seconda volta a 4 mesi dall'uscita dal lockdown. La città si sta reinventando sulla base di nuove abitudini e ritmi diversi, pur mantenendo intatto il suo spirito. La Parigi icona di stile, crocicchio di culture, colori e idee, oggi si ritrova in uno stato di allerta rafforzata, secondo una definizione decisa dal governo, che il 23 settembre scorso ha presentato nuove misure per far fronte a una situazione sempre più delicata. Interdiction des grands événements déclarés, comme les fêtes locales ou les fêtes étudiantes. Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Vietati i grandi eventi come le feste locali o studentesche, i raduni con più di 10 persone in luoghi pubblici e bar chiusi entro le 10 di sera, ha dichiarato il ministro della salute, Olivier Véran. Così, tra restrizioni e accortezze, nei 20 arrondissement della città la vita continua secondo le nuove regole. La mascherina resta obbligatoria sugli autobus e nel metro, ma anche nei boulevard che attraversano la città è ormai raro vedere passanti a volto scoperto dopo la stretta decisa fino a agosto. Il gel disinfettante è diventato il dazio da pagare all'entrata di boutique e caffè, dove si cerca in tutti i modi di rispettare il distanziamento sociale. Un'impresa ardua per una città che conta quasi 21.000 abitanti per chilometro quadrato. E proprio per garantire lo spazio necessario, al termine della quarantena il comune ha permesso a bistro e ristoranti di allargarsi sul suolo pubblico con i tavolini, arrivando a chiudere alcune strade al traffico. La città ha cambiato nuovamente volto, con i parigini che si sono riversati in massa sulle terrasse dei bar per tornare a godersi i loro amati aperò sulle rive della Senna o in cima alla collina di Montmartre, complici anche le temperature inaspettatamente clementi. Se ne è reso subito conto anche Giuseppe Romani, originario di Cosenza, che 2 anni fa ha aperto la pizzeria God Bless Broccoli a 2 passi dal parco di Belleville. Io ho la fortuna di avere un parco vicino alla pizzeria, ciò ha permesso un passaggio enorme già alla fine del lockdown. Già a fine maggio avevamo molta clientela. Si vedeva già quando si sentiva l'annuncio della fine del lockdown, la gente usciva molto di più. E i mesi estivi, giugno e luglio, c'è stata un'euforia collettiva che ha generato molto business. La gente ha ripreso a consumare in maniera progressive e molto intensa, diciamo. Prove tecniche di ritorno alla normalità, anche se le folli notti sugli Champs-Élysées sono ancora un ricordo. Per aggirare il divieto di riapertura, molte discoteche hanno cambiato il loro statuto diventando bar o ristoranti, un escamotage per ricominciare ad accogliere i clienti, mentre le piste da ballo continuano ad accumulare polvere. Ma la vera trasformazione dell'era Covid è cominciata dalla mobilità urbana. Per evitare il sovraffollamento nei trasporti pubblici e smaltire il traffico, la sindaca Anne Hidalgo, al termine della quarantena, ha lanciato le coronapiste, una rete di nuovi percorsi ciclabili che arriva fino in banlieue per una lunghezza complessiva di 50 km. L'iniziativa, che calza alla perfezione con la politica ambientalista della prima cittadina, sembra aver riscontrato un buon successo tra i parigini, già abituati alle due ruote con il Vélib, il servizio di bike sharing che ha superato la soglia dei 400.000 abbonati a inizio settembre. C'è una rivoluzione, je pense que beaucoup de Parisiens ont un peu le même réflexe d'utiliser de plus en plus le vélo, mais malheureusement la ville est toujours pas adaptée, les conducteurs ne sont pas habitués. C'è una rivoluzione, molti parigini stanno prendendo l'abitudine di utilizzare sempre di più la bicicletta, ma sfortunatamente la città ancora non è pronta, gli automobilisti non sono abituati, racconta Romain, un ragazzo sulla Trentina, mentre cerca un parcheggio per il suo Vélib à Place de la République. L'apertura di alcuni tratti ha comportato un sovraffollamento di mezzi, con conseguenti rischi per macchine e ciclisti, come nella celebre Rue de Rivoli, che taglia il centro della capitale costeggiando la piramide del Louvre, i giardini delle Tuileries e il vecchio quartiere ebraico del Marais, una delle arterie principali dove ormai sfrecciano 1063 ciclisti ogni ora secondo le rilevazioni del Parisien. Nonostante questi problemi, la Hidalgo ha promesso che una volta passata la crisi, le coronapiste rimarranno. On est en train d'y travailler, d'abord parce qu'elles ont montré qu'il y a vraiment beaucoup d'usagers, que le vélo est devenu à Paris vraiment un moyen de transport domicile-travail. Ci stiamo lavorando perché queste piste hanno dimostrato di essere molto utilizzate, che la bicicletta a Parigi è diventata un mezzo di trasporto per il tragitto casa-lavoro e in più aiuta a far abbassare l'inquinamento, ha detto Hidalgo ai microfoni di Europe 1. Una mossa che ha provocato malumori tra chi invece con la macchina ci lavora. C'est très très très compliqué. Là, j'ai même envie de changer de métier parce que là, je peux plus. Il y a pas de respect. Les vélos sont à gauche, à droite. Voilà, il y a pas de loi pour les vélos. È molto molto complicato. Ho voglia di cambiare mestiere perché non ne posso più. Non c'è nessun rispetto. Ci ritroviamo biciclette da tutte le parti. Non c'è nessuna legge per loro, dice una tassista davanti alla stazione di Gare de l'Est mentre aspetta la sua prossima corsa a motore spento. Il coronavirus ha costretto Parigi e i parigini ad adattarsi ad una situazione inedita che per qualcuno ha portato anche dei vantaggi. Come che ha approfittato della pandemia per lavorare da casa in telelavoro, risparmiandosi quei viaggi interminabili per raggiungere l'ufficio ogni giorno. Una comodità durata poche settimane, secondo un sondaggio condotto a fine agosto da YouGov, secondo il quale il numero di lavoratori a distanza è sceso dal 45% registrato durante la quarantena al 22%. Chi invece non ha più scuse per uscire la mattina sono gli studenti, tornati sui banchi il 1 settembre. In seguito alla chiusura di una novantina di istituti per la presenza di casi positivi, il governo ha deciso un alleggerimento del protocollo sanitario nelle elementari e materne di tutta la Francia, che dal 22 settembre prevede la chusura di una classe solamente a partire da 3 casi riscontrati al suo interno. Un cambiamento di rotta consigliato dall'alta autorità sanitaria, mentre il coronavirus continua a guadagnare terreno in tutto il paese. I ricoveri nella regione parigina dell'Île-de-France sono raddoppiati questa settimana, passando da 460 a 1000. Una situazione destinata a peggiorare, con il Ministero della Salute che per metà novembre prevede l'85% delle entrate in rianimazione causate dal Covid-19. Nelle ultime settimane in Francia è stato adottato un piano di controlli a tappeto per effettuare il maggior numero di tamponi possibili, in modo da interrompere le catene di trasmissione. La strategia, però, sembra aver sopravvalutato le capacità di Parigi. File interminabili davanti ad ospedali e laboratori, risultati dopo 2 settimane e mancanza di materiale e personale. Un vero e proprio fiasco, tanto da costringere le autorità ad installare in un secondo tempo dei tendoni davanti ai municipi di alcuni arrondissement della città per testare i cittadini senza appuntamento o ricetta. Ma anche in questo caso la situazione non sembra essere migliorata, nonostante le rassicurazioni del comune. On a fait à peu près 500 tests aujourd'hui, vous voyez, c'est quand même pas rien, entre 10h e 16h30, on a tenu le choc, on était bien organisé. Oggi abbiamo fatto circa 500 tamponi tra le 10 e le 4:30, non è poco. Abbiamo resistito allo shock, eravamo ben organizzati, garantisce Julien Volikov, coordinatore del centro installato davanti al 19° arrondissement. Un giudizio che non sembra però essere condiviso da tutti. Bah, il y avait marqué sur le site que le dépistage était à partir de 14h et là on voit que c'est de 8h à 14h donc c'est un peu énervant quoi. Sul sito c'era scritto che i tamponi cominciavano alle 2 del pomeriggio, ma adesso vedo che è dalle 8 alle 2, è un po' snervante, spiega una ragazza. Dal 21 settembre il dispositivo è stato rafforzato con 6 nuovi centri nella capitale, per un totale di 20 in tutta l'Île-de-France, con l'obiettivo di arrivare a 500 tamponi al giorno in ogni struttura, dando priorità a chi presenta sintomi e a chi è entrato in contatto con persone positive. L'obiettivo è quello di riuscire a fornire i risultati in 24 ore, come promesso inizialmente, rendendo il sistema più affidabile e mirato. E in un momento così delicato c'è anche chi trova il coraggio di speculare. Alcuni laboratori garantiscono un responso rapido dietro a un compenso di 100 euro a tampone. Una pratica illegale, visto che i test vengono rimborsati dal sistema sanitario e sulla quale il garante della concorrenza dovrebbe aprire un'inchiesta. Intanto, la capitale resta sorvegliata speciale. Il rischio è che nelle prossime settimane possa scattare lo stato di massima allerta, come già successo a Marsiglia, ad Aix-en-Provence e nella Guadalupe. In quel caso, la città sarebbe costretta a prendere alcune misure drastiche, come la chiusura di ristoranti e bar, con un conseguente contraccolpo economico che metterebbe KO molte attività. Un'ipotesi che spaventa, anche se le autorità hanno più volte escluso un ritorno del lockdown generalizzato. Ma qualcuno già comincia a notare dei cambiamenti in questi ultimi giorni. Il y a beaucoup plus de trucs qui sont fermés, on peut plus rester aussi longtemps en terrasse. Bah, il y a plus de fête en réalité. Paris est beaucoup plus vivo. Ci sono molti negozi chiusi, non si può restare troppo tempo seduti ai tavolini fuori. In realtà non c'è più la festa di prima, dice Julien. Parigi si prepara così ad affrontare una seconda ondata di coronavirus, tenendo bene in mente il suo storico motto latino, Fluctuat nec mergitur, sballottata dalle onde ma non affonda. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo.